No. Buongiorno, buonasera. Buonasera. No, ma io buono, sento. Buono, buono. Ora siamo in onda. Oh, ora sì. Dicevo, come ogni buon mercoledì che si rispetta, piove. Di ovvio. Il time rock cielo nero, vento. Aquile che sopra. Trasmissione bagnata. Domani è maggio, ma sembra novembre. Sembra novembre. Vabbè. Io voglio il calcio. Ma finalmente lo posso dire, ragazzi: è venerdì. Sì, è venerdì. No, è mercoledì. Per me è sì. Ah. Perché beato domani te. Non lavoro, venerdì non lavoro. Quindi per me è sempre lunedì. Sì, tutti ora adesso lavorerai da qui fino al 2015 fisso tutti i giorni, non tutte stop. Le ore. Vabbè, almeno non mi annoio nel discutere, nel decidere dove andare e dove non andare. Come fate? Beh, certo, sì. Effettivamente è vero. Vero. Il segreto è non aspettarsi mai niente. È vero. Ma comunque, 21esima puntata di All Time Rock and Roll. La formazione è sempre questa. Sono il patruo. Oggi siamo tutti. Siamo tutti, sì, tuttissimi. Cioè, incredibile, per la prima volta da 10 puntate. No, no, vabbè, c'è, dai, anche il Bindi. Oh, sono anch'io. E non fai sentire la tua voce. Davanti a me il Luke. Accanto, eccolo, a me il Nanno. Ci so. Le due schiene più belle di All Time Rock and Roll, che sono i due tecnici. Il fondo schiena alla Seedorf di Mirko Mazzeo. Grande alla Messi. Ale. Comunque oggi non ci sono compleanni. Aia. Oggi no, non è nato nessuno. Il 30 aprile. Non è nato nessuno nel mondo del rock. Famosissimo il 30 aprile, perché non è nato nessuno nel mondo. C'è una taglia sulla testa di chi nascerà, esatto, il 30 aprile. C'è gente che fa di tutto e non nasce il 30 aprile. Vabbè, andiamo, basta. Comunque, quindi partiamo subito con la quarta parte. Aspetta, fermo. Perché ci stai minacciando, no, con il jack delle cuffie, Masa? Non lo so. No, corti, non ci arrivo. Ah. Attenzione, ha detto che ce l'ha corto. E un ci arriva. Le cuffie, jack, sta giunta, vai. Il jack. Daniel. Comunque, no. No. Andiamo avanti, quindi, anzi, andiamo avanti. Partiamo subito con la quarta parte del 1970, la storia del 1970, giusto? E parliamo dei Grateful Dead e della loro Tracking, una canzone appunto della band Grateful Dead, la cui prima comparsa risale appunto nel 1970, grazie all'album American Beauty. Masa, tutto ok? Sì. Perfetto. È stato. Che sto a fare, compa? A posto. La canzone è stato riconosciuto dalla United States Library of Congress nel 1997 come un tesoro nazionale. Quindi pensa un po'. Ti ricreste con l'io? Sì, no, non lo so, infatti, io non capisco cosa fuori le Lego, l'ho tirato fuori. Non lo so. Scritto dai membri della band Jerry Garcia, Bob Weir, Phil Lesh e il paroliere Robert Hunter, stampi classici contraddistinguono i ritmi da appunto da Grateful Dead, quindi proprio dalla band. Parti dal castello, Masa, sempre il castello. Sempre il castello. Poi quindi possiamo lanciare il brano, il disco, giusto tecnici? Sì. Ok, loro sono i Grateful Dead con Tracking. Tracking. Got my chips cashed in, keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line, just keep trucking on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doodah man. once told me God could play your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me, what a long, strange trip it's been. What in the world ever became of Sweet Jane? She lost her sparkle, you know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Trucking up to Buffalo, been thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. Just keep trucking on home. Sitting and staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street. Sit up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. It just won't let you be. You're sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you want to settle down. I guess I can't revoke yourself trying. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me, what a long, strange trip it's been. Trucking. E questi erano i Grateful Dead e la loro Trucking. Continuiamo con il signor Mango Jerry e la sua In the Summertime, che pensate è il singolo di debutto. E poi ci fu anche il ritorno di Mango, chi ci rimase male, che era Rimango infatti. Manda il disco, vai. Ciao ragazzi, alla prossima All Time Rock and Roll, Radio F Valdichiana. Questa è una battuta molla, eh? Sì, abbastanza molla. Questa è molto molla. Questa è, vabbè. Beh, data la giornata, no, è mollo per mollo. Effettivamente. Beh, sì. Tra un po' è Natale, voglio dire. Siamo a fine novembre. Cioè, hai fatto calare lo share in una maniera impressionante. Lo so. Sei consapevole di questa cosa? Rimango. Infatti, hai rovinato la puntata. Io. Ma vaia, vaia. Eccolo, senti quell'altro. Comunque, è il singolo di debutto del gruppo musicale folk rock britannico Mango Jerry, pubblicato nel 70 appunto dalle etichette Down e, pensate un po', Janus. Oh, vale. Piccola parentesi. Foianese. Ricordo foianese, sì, Forum Iani o Fajanus. O Janus anche. Vabbè. Sì, è il dio Giano, sì. Il dio biface. Divano. Divano. Sì, ok, vogliamo andare avanti per parecchio. Aeroplano. Erano quattro righe. Lanciano. Ce n'ho una, ma non la posso dire. No, infatti finisce male. Ho trovato la rima sbagliata. Non continuo perché tanto lo so qualcuno. Bene che tu vada avanti nella descrizione. Mette fuori la testa dal pulmino giallo. Ah, finisce con... No, a parte scherzi, dai, ce l'ho in mano. Fammi continuare. Va bene, ok. La scaletta ce l'ho in mano. Ok. Eccoci. Comunque il brano era diventato popolare in tutto il mondo ed è stato scritto dal leader del gruppo Ray Dorset e prodotto da Barry Murray. Il secondo è stato tratto dal secondo album, sempre del gruppo, Electrically Tested, in varie versioni, contenenti come B-side Mike the Man, She Rowed e Lady Rose, ha ottenuto un grosso successo di vendite raggiungendo la vetta delle classifiche di paesi diversi. Senti qua, senti qua. Che sta... metti il sole, guarda. Veramente. Tira un po' sull'umore. Sì. Vai biondo! See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Do a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When our daddy mean, when our daddy, when I mean, everybody, but we do as we please. Or go sailing in the sea. We're always happy. Life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da, yeah, we're happy. Happy. Da da da, dee dee da dee dee da da da. Summertime, and we'll see again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. Mango Jerry. Cioè, non ci sta proprio una canzone scritta Summertime oggi, col tempo oggi, che c'è, magari no, no, però no, aiuta un attimino a immaginare, sì, dai, il sole tira fuori. Tira un po' su, tira un po' su. E andiamo avanti con Immigrant Song dei Led Zeppelin. Beh, nulla. La canzone dei leghisti. Mm. Dei leghisti? No, sto scherzando. Canzone degli immigrati. Ok. C'è una storia molto interessante dietro, andrò a denunciare. Sciopero? Sembra impossibile, ma è così. Il concerto rischia di saltare per uno sciopero. Insomma, non si capisce bene la ragione, ma il fatto è certo. Anche le Zeppelin, pur invitati dal governo islandese, il concerto a Reykjavik non si può tenere. A meno che non si accetti la proposta degli studenti universitari che vogliono mettere a disposizione l'aula magna, forse anche uno spazio più grande. Non sapevo che il magna avesse un'aula. Non so, infatti anch'io non lo sapevo. Perché no? Il dirigibile può volare anche nel piccolo. L'atmosfera è fantastica, l'accoglienza incredibile. Gli Zeppelin lasciano l'Islanda per continuare il loro tour, ma non riescono a togliersi dalla testa quel concerto e anche le immagini della mitologia celtica evocate da quella terra e da quelle genti. Mentre sono a Bath, altro luogo di leggende, perché lì si dice sia conservato il sacro Graal. Famosissimo anche per essere la città natale di Batman. È ovvio. È ovvio. E dove c'è anche la Batcaverna. Ovvio, chiaro. scrivono proprio Immigrant Song. La dedicano a Leifur Eriksson, grande esploratore islandese. Credevo l'allenatore. No. Parente? No, non forse, non lo so, di Eriksson ce n'è tanti da ogni cugino. Parola trovate qualcosa per da agganciare al calcio. Al calcio, sì. Io veramente, guarda. A te ogni parola trovi qualcosa, insomma, per agganciarti ai fumetti. Vero, vero. E allora è la solita cosa. È vero, sono nerd, cosa ci posso fare? L'ho detto, io voglio... Leifur Eriksson. Io voglio fare... Guarda, lui vuole continuare, ma non... E io voglio fare 10 minuti... Ogni puntata di All Time Rock and Roll angolo nerd, lo voglio fare. Dopo possiamo parlare anche di Spider-Man 2, eh? Non l'ho visto, lo voglio vedere. Ah, non l'hai visto? Anzi, dopo lo commentiamo con The Amazing Spider-Man. The Amazing. Non confondere con i primi tre. Vero. Leifur Eriksson era un grande esploratore islandese, primo europeo a scoprire l'America del Nord, la regione che poi viene conosciuta come Terra Nova. Terra Nova gioca nel Sassuolo. Sì. Bracciolini. No, no. La scrivono pensando ai vichinghi, ai loro viaggi, alle scoperte, alla grandezza del tempo andato. Non sanno, mentre scrivono, che i loro fan non capiranno che quello è un omaggio ad una terra e penseranno invece che Immigrant Song sia un'autocelebrazione. Invece no, non solo loro il mantello degli dei, anche se... Ma che il martello di Thor, vedi? Biografia. Ti rendi conto che ha tagliato la parte del martello di Thor? È incredibile. E non la legge. Perché l'angolo nerd... So anche come si chiama. Ti rendi conto di tutto quello che poteva tagliare, ha tagliato. Non ha parlato del Major. Infatti il dio Dino lo sapeva e ha scatenato un... E via, e là. Un temporale. Annegheremo tutto. Immigrant Song, Led Zeppelin. Comunque... Bene, ragazzi, prima di andare quella canzone, solo per sono Pacelli Paolo, l'editore della radio, siamo in par condition e quindi la battuta fatta casualmente dei leghisti è stata involontaria e per par condition dobbiamo ricordare anche le altre gli altri partiti, certo, almeno quelli più importanti, PDL. E poi abbiamo il PD e AB 5 Stelle e tutti gli altri, quindi battuta involontaria, siamo in par condicio, tra l'altro Radio F non aderisce a nessuna forma di partito e né di sponsor, quindi con questo abbiamo fatto un'errata corrige. Certo. Allora, buon ascolto con il prossimo pezzo. Immigrant Song, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Prima di andare avanti, ragazzi, volevo ricordare un l'angolo grande... nerd. No, a parte che quello lo voglio, io lo voglio, datemi una volta al mese, una volta ogni sei mesi, una volta a puntata, quando vi pare, io con Bindo, magari insieme a Bindo che mi aiuta, perché volentieri. Lui è espertone anche il mio lui. Uomo, vieni qui, dammi il pugno. Dagli un bacio, dagli un bacio. Allora no, siamo lontani. Volevo ricordare. Ecco, bravo. No, è più. Aia. Aia. Bravo. Bravo. Grazie. Bravo. Volevo ricordare un grande appuntamento che c'è domani, che è il concerto del Primo Maggio a Roma. Sì, sì. È sì, un sì. Grandissimo. Ci siete mai stati voi? Una volta. Sì, eravamo insieme. Sì, sarà insieme. Sì, ma siamo stati tipo un'ora e siamo andati via. Non, sì. Non so ancora il perché. Comunque. Si è preso un panino. Bravo, esatto. Andate lì, un panino. Siamo venuti via. La siga, via. Vabbè, dopo la sigarettina e via. Ok, però no, ci sono un sacco di artisti. Di artisti. Ci sono i Banda Bardò, Piero Pelù. Banda Bardò ci sono sempre, padre. Modena City Ramblers ci sono sempre. I Tiro Mancino. Ah sì, beh, loro sì, loro sì, loro sì. Ma veramente, volevo ricordare anche perché è uno dei più grandi appuntamenti della musica, della musica italiana, certo, certo. C'è un tuono questo che ho sentito nelle mie cuffie. Io sì. Spero, no, no, spero, no, forse ero, no, no, forse non ero io che appoggiavo la mano. Ah, ecco. Ok, alle mani di adamanti. No, mi sono non, un attimino, non ti prego, non piovere. Mi sono un attimino preoccupato. Comunque, andiamo avanti, parliamo di Domino. Allora, io leggerò un po' come. Ah, del gioco? No, della canzone. Leggerò. No, che come no sapete, la leggo io da qui. Canzone che, come tutti saprete, ha avuto un effetto domino. Esattamente, allucinante. La prima parola fa cadere tutte. Comunque, io adesso la leggerò un attimino come il mio PC l'ha stampata. E okay. Non riesco ancora a capire perché in questo modo. Non riesco veramente a capire perché. E poi sono il tuo. Sì, perché io il file l'ho mandato io a voi, l'avete stampata tutti correttamente, io no. Vabbè, allora. Domino è una canzone di successo scritta dal cantatore irlandese Van Morrison. E fin qui. E fin qui, buono. È il brano di apertura del suo quarto album. Attenzione, in studio http://translate.corrent.com/translate. E va avanti. Prendete così, nota, per 4 prendete righe. Nota. È un io codice, voglio è un copiare codice. Poi questo link, capito? Perché poi il link di Translate, volete al lavoro. Siamo sicuri che è il link di Translate? Sì, è Translate. Non comunque. È che inizia con la Y e finisce. No, no, no, no. Non no, è che no, stai no. Facendo altre cose. No, no, era al lavoro. Era al lavoro. Bene, bene. In pausa pranzo. Ah, attenzione. Almeno lo ammette salvato lui. Il calcio d'angolo, eh. In pausa pranzo. Salutiamo il direttore della ditta dove lavora il padre. Saluto l'ingegnere, che non faccio nome perché sennò ho potuto lei. Comunque, questa canzone arriverai licenziato in tronco. Questa canzone è un personale omaggio musicale di Morrison a New Orleans, che non è la città, ma bensì un cantante R&B. E anche un omaggio ad un gioco. Anche al, no, a un gioco. No, anche al pianista domino. Fast Domino. È stata rilasciata dalla Warner Bros. Records nel mese di ottobre del 1970. Che strano, infatti non stiamo parlando del 1970. Come il primo dei tre singoli estratti dall'album. A partire dal 2010, Domino rimane il più alto singolo di rilievo mai scritto da Morrison, superando se stesso con la sua Brown Eyed Girl, di cui abbiamo anche già parlato, se non sì, sbaglio, sì, sì, che sì, esatto. Aveva tracciato al numero 10 nel 1967. Van Morrison, Domino. Kids are going to ground, get some heavy rest. Never have to worry about what is worst or what is best. Do it. Oh, Domino. Oh, never hear from him. That just meant he didn't call. I'm fat Sylvester. That depends on wherever you're at. Or, and if you never hear from me, that just means I would rather not. Oh, Domino, alright. Romeo, Romeo, there you go. Lord have mercy, I said. Oh, Domino, Romeo, Romeo, there you go. Hey, alright, say it again. Van Morrison e la sua Domino. Stavamo parlando appunto di cannoli. Di cannoli ripieni da mangiare. Ora voglio vedere chi lo mangia. Ora voglio vedere chi lo mangia. Si inventa la giacca. La metterei. Ecco. Comunque continuiamo con After Midnight, che è un singolo pubblicato dal signor Eric Clapton. Che Patrusi ci tradurrà in dopo mezzanotte. Bravo Patru. Midnight. Uscito nel mese di ottobre del 1970, estratto dall'album omonimo. State muti. John. Il brano fu scritto da JJ. Vabbè, ciao. Dai, su. Vai JJ. Da chi fu scritto il brano? JJ. JJ Cale. Jonah Jameson. Che purtroppo recentemente è scomparso. Per l'appunto. Per l'appunto. Ho fatto perdere il filo del. Verso la metà degli anni 60 fu registrato come demo pubblicitario dalla Liberty Records nel 66. Il successo del singolo fece da catalizzatore alla sua carriera artistica, tanto che firmò un contratto per la Shelter Records, con la quale pubblicò il disco Naturally del 71, dove incluse la propria versione del brano Mr. Slow Hand, Eric Clapton, After Midnight. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chug a lug and shout. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. What it is all about, what it is all about. Oh, after midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight, soak up be peaches and after cream. After midnight, after midnight, don't cause talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. What it is all about, what it is all about. Ah! After midnight, we're gonna let it all hang down. All about, what it is all about. After midnight, we gon' lay it all hang down. After Midnight. Salutiamo l'operatrice telefonica che mi ha appena chiamato. Sì, esatto. E anche l'operatore dopo che ti ha chiamato. Te hai trattato con tanta gentilezza. Grazie, con tantissimo affetto. Chiamate, chiamate, chiamate. Anche l'operatore dopo che ti ha chiamato volevo salutare. Che ero io. Quell'anonimo. Però. Ovvio. Andiamo avanti. Dei bambini, andiamo veramente. Andiamo avanti con... Adoro dei bambini. No. All Right Now, dei Free. Free. 1970 ovviamente. Durham, Inghilterra. I Free lasciano il loro palco dopo il bis. E l'applauso, l'ho capito un po' in ritardo. Della gente muore prima ancora che il batterista Tom Mountner, ultimo a lasciare la scena, si alzi dal suo sgabello. L'unico suono che riuscivano a sentire era quello dei loro passi. No, non era stato un gran concerto, ma quell'applauso finale soffocato era stata la molla decisiva per affrontare l'argomento. Ai Free mancava un blues veloce con cui finire i loro concerti. Il loro repertorio era formato da blues lenti o mid tempo, che andavano bene in certe occasioni, ma non verso la fine, quando la gente voleva eccitarsi e andare via con altra voglia di musica. Bene. Mountner disse che era giunto il momento e che non si poteva più rimandare. Andy Fraser, il bassista, rispose "All right now" e poi, come colpito dalle sue stesse parole, cominciò a canticchiarle. Pensavo che poi, come colpito dal suo stesso basso, no. Il famoso colpo, per fortuna no, o dallo sgabello di Mao, di basso, il famoso colpo di genio. Genio, vero. 10 minuti dopo, All Right Now era nata. Il testo parla di un ragazzo che vede una ragazza carina per strada e le chiede di andare via con lui, ma di farlo in fretta prima che il costo del parcheggio salga troppo. Lo fa tutti i giorni anche il Bindi, sì. All Right Now, romantico. There she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name? Maybe we can see things the same. Now don't you wait, oh, hesitate. Let's move before they raise the parking lot. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, Lord above, now you're trying to trick me. She said, love, love above. Now he's gonna trick me in love. Fosse capito, all right now, dei Free. Dei Free. Ci siamo, Ci, ci siamo. Ce la posso fare. Che senso? Abbiamo fatto l'Anglo Nerd fuori diretta. Ah. Piano piano riuscirò a portarlo in diretta. Ma sarei sempre fuori diretta. No. No. Prossima volta parleremo del film di Amazing Spider-Man 2 in diretta. Ora ne abbiamo parlato fuori. Vabbè. Piano piano ci quando vuoi. Arrivato. Bravo Pulpa. Bravo. Io comunque sarei ogni tanto per parlare un po' di, cioè, con, mi va bene, non è sì, che no, vabbè, non è che aborro. No, no, è chiaro. No, no, chiaro, vabbè. Facevo per dire. Comunque, andiamo avanti. Parliamo di Diana Ross. Cosa hai fatto? Siamo sul filo del caso. Ain't No Mountain High Enough, un brano R&B scritto da Nicholas Ashford e Valerie Simpson nel 1966 per la Tamla Motu Record. Tamla Motu Records. Motown, giusto, bravo, Motown. Oddio. Motovn. La composizione è stata Motovn anche. Il russo è Motovn. Motovn. La composizione è stata il primo successo registrato da Marvin Gaye e Tammy Terrell. E dai. Nel 1967, diventando di nuovo un successo nel 1970. Diana Ross. Canzone molto corta. Eccolo. Sì, sì, sì. Ma non durava 6 minuti e 21 con un'introduzione di 0,30. No. Apro e chiudo parentesi. Ragazzi, ecco, è arrivato il momento delle attenzione. Tenetevi forte. Di chi? Carro. No, quarto. No, non è il testamento del carnevale. Scusa, ho sbagliato scaletta. Non è sbagliato stagione. Sbagliato stagione. O è la stagione che ha sbagliato. La stagione è qui. Più là, sì. Momento delle citazioni. Oh, e cosa sono? E di cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Aspetta, te la faccio. E di che cosa parliamo? Un pulpo con le patate. Lo prezzemolo in coppa. Allora, la prima citazione riguarda Keith Richards, che come sapete è un componente di... della banda Bassotti. Concerto a giugno. No. C'è un concerto a giugno? Mi sembra che facciano un concerto a giugno, Rolling Stones. Mi sembra. Sbaglio, il 22. Ma mica ci vai, bimbo? Così c'ho scritto nei biglietti. E scecco, e scecco. Oh yeah. Scecco. Veleno. Comunque lui ha affermato, alla domanda su cosa ne pensasse dei Led Zeppelin, lui ha detto: "No, non potrei mai sopportare di stare in una band con un cantante che fa mossette e si dà delle arie." Satisfaction. Insomma, Patru, riusciamo a farti inserire in questo angolo nerd? Piano, ce la sto facendo, sto creando il mio angolino nerd. Avrai tutto, allora te lo dico da ora, avrai tutto il tuo spazio disponibile dalle 8 in poi. Ecco. Benissimo, e io starò qui dalle 8 in poi. Va bene. Parlerò da solo, proprio non in onda, proprio da solo, giù. Con me, Patru, però da solo. Grazie Bindo. Però fuori, perché anche Paolo esce. Ovvio, sarai sotto le logge. Però farò l'angolo nerd con il Bindo fuori. Va bene, va bene. Andiamo avanti con le citazioni. E la prossima è stata detta, non lo so, dagli SDC, non si sa quale membro, sì. Però e la citazione è questa: è una bella rottura di scatole aspettare il tuo turno di diventare miliardario. Lamentiamoci. Attendere a lungo volentieri, guarda. Lamentiamoci. Rock and Roll Train. partito, ci siamo. Mazzeo dai numeri, siamo allora 22, 21, 20, 19, 45, 20, 21, 22. Ha fatto un countdown da metà canzone, ha fatto. Divina chi si ruota? Ruota? Non lo so. Nabul. No. Bari, Bari, Bari. C'è la ruota di Napoli. Sì. C'è. Allora, si vede che non gioco mai. Salmasa. Vabbè, comunque. C'è anche la ruota nazionale. C'è la smorfia. Non ce l'ho mai capito niente. Ma non so dove è nazionale. In Italia. Ah. Credo. Coverciano. Comunque. Terza ed ultima canzone ed ultimo brano di oggi. Infatti con questa canzone noi vi salutiamo. Per la vostra felicità. Yes. E comunque. State nella pelle. Una frase detta dal mitico Bruce Springsteen che tu, Luke, e tu, Bindu, adorate, vero? Sì. Yes. Vabbè, l'hai detto molto convinto. Abbastanza. Bah, più che meno, dai. Non fare il modesto. Comunque, lui una volta ha detto: ho sempre cercato di misurare la distanza fra il sogno americano e la realtà americana. Ragazzi, con una fettuccia da 50 metri. No, credo un po' di più forse. No, fermo, perché in America hanno un'unità di misura differente. Sì, hanno i polli. Come insegna il Royal Conformation. Anzi, le yard. Bravo, le yard. Sì, le miglia. Sì. Le miglia. Le yard sono inglesi. Ma penso che le usino anche per loro. Per il peso hanno lo stone. Fa proprio una cosa pesa, proprio hanno la pietra. Lo stone. Cosa? Sì, una cosa importante. Proprio, quanto pesa? Ah, pesa 2 stone. Ah, pesissimo, allora. Comunque ragazzi, vi salutiamo sulle note di Bruce Springsteen della sua Dancing in the Dark. Ci risentiamo. Noi non lo sappiamo prossimo. Perché sabato andiamo a Roma, non sappiamo se ci se, ok, ecco, non so okay. Cos'è di cosa andate a vedere. La finale di Coppa Italia. Torneremo vivi. Io vado a Barcellona invece. Vero. Leggiamo. Cioè, quindi rimango solo io e la fai te settimana. Sì, rimaniamo solo io e Biondo io con un occhio probabilmente che si è fatto male oggi, quindi pensate voi. Ricorderei a tutti gli ascoltatori di andare sulla bacheca del Bindi e lamentarsi. Sì. Lamentarsi. La mancanza di tempo, di soldi. Esatto, di esatto. Bene, esatto. Ti aspetto. Magari sotto una foto pubblicata da Barcellona. Esatto, ovvio. Ma commentate tranquillamente. Vi ricordiamo la nostra pagina Facebook All Time Rock and Roll. Ricordiamo anche il podcast, anzi gli ultimi 37 podcast di Valerio per caricare la sua connessione a 56K. Li ho caricati. Sì, ma sì, non, ma non li ho linkati. Poi è la meno. È la meno, la meno. Cioè, basta, 2 click, tac, 3, riapro la finestra, riclicco, fatto. Anzi, preparatevi perché un giorno avrete 15 podcast a ascoltare. Tutti da ascoltare. Sì, no. Ma la colpa è di Giulio. Sì. No, povero. Sì, è suo fratello. No. Ragazzi, ci sentiamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 come sempre e se volete. Ciao stasera a tutti. Claudio, stasera Claudio. We'll be right back.